Scuola in controluce. 600 bambini stanno respirando l'amianto in questo momento. 600 bambini stanno respirando l'amianto in questo momento. Andiamo via. Proprio in questo momento. Questo buco, venite sul territorio, venite a vedere cosa succede. Venite a scuola lì a vedere quello che sta succedendo. Siamo ad Ostia, le voci che avete appena sentito sono quelle di un gruppo di genitori che non si rassegna e che ha protestato nella sala consiliare del 13° municipio di Roma. Una storia che parte da lontano, quella che vi raccontiamo oggi, fatta come purtroppo spesso accade di colpevoli silenzi, denunce inascoltate, in mezzo un tasso di tumori infantili che qui supera di oltre due volte la media nazionale. Andiamo con ordine, ricominciamo dalla scuola dell'infanzia Dore Mi Diverto, costruita negli anni Ottanta. I genitori denunciano la presenza di amianto, presenza mai ammessa dalle autorità, che però non si sa bene per quale ragione nel 2010 dispongono la chiusura della struttura. Scuola chiusa dunque, problema apparentemente risolto, invece no, perché il 10 settembre 2012 la scuola Dore Mi Diverto, già chiusa, viene data alle fiamme. La scuola va letteralmente in fumo e preoccupare a quel punto sono i materiali che vanno in giro nell'aria, forse anche quell'amianto che ci sarebbe stato nella scuola. La struttura infatti è inserita in un ambiente molto delicato, all'intorno ci sono un'altra scuola dell'infanzia, una primaria, due medie, oltre ad una biblioteca, un ostello e molto altro, ovviamente anche delle case. Nelle scuole intorno finestre chiuse e tanta paura. Buongiorno a Mario Di Loreto. Buongiorno. Che cosa è successo a suo figlio il primo giorno di scuola? Dunque, il primo giorno di scuola lui praticamente ha la finestra al primo piano della seconda media che dà proprio di fronte alle ceneri dove c'era prima la scuola Dore Mi Diverto. E parliamo di via Adolfo Gozza, per chi conosce la zona. E com'è tornata a casa? Lui praticamente è tornato a casa con la gola infiammata, sonnolenza, e praticamente si lamentava che bruciava la parte, indicava la gola quando diceva che bruciava la gola, e niente, non ha mangiato quando è tornato, è stato a letto fino alla sera dopo cena, si è svegliato verso le 9:30 così. È successo solo a suo figlio? Il fatto è questo, io allora ho cercato di indagare sulla situazione perché poteva essere un caso che mio figlio ha preso un'influenza così, ma stava benissimo fino al giorno prima. E sono venuto a sapere che anche altri genitori, e so anche, insomma, posso anche fare i riferimenti a chi mi chiede, che anche i loro bambini hanno avuto i stessi sintomi. Quindi sonnolenza e gola, diciamo, irritata. Gola irritata e sonnolenza. E la cosa grave è appunto questa cosa, questa indifferenza che io ho riscontrato. Mi aspettavo una mano tesa verso le preoccupazioni dei genitori, invece ho visto addirittura, cioè, indifferenza dalle istituzioni che dovrebbero tutelare i cittadini. Marta Geranzani, una delle mamme alla Dore Mi, sua figlia o suo figlio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sua figlia, buongiorno. O suo figlio frequentavano la Dore Mi Diverto? Sì, esatto, sì. Facevano la materna, la Dore Mi. E come facevate? Ecco, perché siete così sicuri che in quella scuola ci fosse l'amianto? Ma c'è una relazione di una ditta certificata, peraltro relazione commissionata dall'ufficio tecnico del municipio 13°, per cui non, insomma, qualcosa di ufficioso, qualcosa di assolutamente ufficiale, che certifica la presenza di amianto nella controsoffittatura della scuola, uno dei tanti problemi che quella scuola aveva, perché quella scuola era una scuola molto insicura, certificato anche questo da un'altra relazione sempre commissionata dal municipio 13°, e dunque noi come mamme ci mobilitammo all'epoca, come genitori ci mobilitammo e ci opponemmo alla prosecuzione delle lezioni dentro quella struttura così fatiscente. Risposte? Risposte? Beh sì, in effetti era talmente palese l'evidenza che la scuola fu chiusa. In effetti fu chiusa e i bambini furono trasferiti. Mm-hmm. Sì, noi credemmo in una vittoria, ma come appunto il suo racconto ha documentato, una vittoria parziale, perché non in questo caso dalle ceneri non è emerso niente di buono. Assolutamente sì. Allora a questo punto sentiamo anche Giacomo Vizzani, presidente del 13° municipio Ostia Lido. Buongiorno Vizzani. Buongiorno a voi, agli ascoltatori e ai presenti nella riunione. Ecco, abbiamo detto delle imprecisioni, qual è la sua posizione? Insomma, questo amianto, ecco, allora, c'era o non c'era? Andiamo per ordine. Premettendo una questione che non è una diminuzio delle eventuali responsabilità che noi abbiamo sempre affrontato in maniera adeguata, diciamo che la competenza non è del Municipio 13 quanto del Dipartimento, quindi noi siamo praticamente l'anello di congiunzione fra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini, siamo il certo, Municipio 13, quindi certo, abbiamo un'attività sussidiaria come definita. Però adesso al di là di questa situazione credo che qualche imprecisione sia stata detta, è stato detto che non si capisce perché è stata diciamo doveva essere demolita questa scuola e poi perché la scuola era assolutamente fatiscente, è stato detto anche dalla signora e su questo siamo d'accordo e l'abbiamo considerato tutti una vittoria, ma guardi che io sono ancora convinto che lo sia, nel senso che purtroppo se non fosse intervenuto quel problema dell'incendio nel settembre. Allora, anche una parentesi la voglio e due parole voglio spendere sulla eventuale presenza di amianto. Allora, lì non c'è amianto, l'amianto non esisteva, esistevano solamente dei tasselli di un centimetro per un centimetro che servivano a tenere distanziati i tubi del riscaldamento per evitare. E questi erano d'amianto, in effetti. Sì, ma è un centimetro per un centimetro, quindi una possibilità di amianto dello 0,00001 forse. Ecco, e probabilmente se non ci fosse stato l'incendio si sarebbe potuto rimuovere senza un costo eccessivo. Non c'era proprio. Intanto adesso noi stiamo facendo che cosa? Perché qui si è lamentata anche l'inerzia del municipio, perché il municipio nonostante non fosse nelle sue competenze si sta diciamo impegnando su questo aspetto qui, stiamo facendo fare con le nostre modestissime risorse la caratterizzazione delle ceneri per avviarle a discarica, credo che oggi forse massimo domani dovremo avere una risposta dove praticamente potremo pulire, ma è stato messo in sicurezza, è tutto coperto. È stato messo in sicurezza, però dicono i genitori, appunto, l'abbiamo sentito anche prima, dei ragazzi nelle scuole vicine che insomma non stanno tanto bene. Cosa respirano questi ragazzi? Questo è successo prima che venisse messo in sicurezza, almeno io la conosco in questi termini la faccenda. Quindi lei può assicurare che adesso è tutto a posto, i ragazzi delle scuole accanto possono anche aprire le finestre e respirare tranquillamente, non ci sono problemi? Guardi che se era posto un problema di altra natura, ovviamente che non ha nulla a che vedere con le scuole, addirittura si avevano sospeso una manifestazione culturale che è la festa dei sardi, che sono circa 30.000 qui nel nostro territorio, che dovevano fare questa festa nel parcheggio a fianco alla Dormire di Verto, quello che dà davanti alla biblioteca del Samorante. Poi, proprio in funzione di queste certificazioni che abbiamo avuto e il fatto di aver messo in sicurezza ha consentito di poter svolgere questa manifestazione. Quindi lei dice ai genitori state tranquilli? No, tranquilli, dico sì, sicuro. La macchina, tutto quello che era possibile umanamente fare e lo abbiamo fatto e lo stiamo ancora facendo, perché se lo sto dicendo che credo oggi o forse al massimo domani avremo questa caratterizzazione e potremo portare via tutte quante le ecco, questioni. Forse è meglio, è così almeno evitiamo è la cosa migliore. È la cosa migliore. Bene, noi allora ringraziamo Giacomo Vizzani per averci rassicurato. Speriamo che vengano rimossi subito, immediatamente, anche insomma i residui, ciò che rimane della scuola Doremi di Verto, bruciata, andata in fiamme nel settembre 2012, perché davvero solo così i genitori dei ragazzi delle scuole vicine potranno stare tranquilli. Ringrazio Mario Di Loreto, ringrazio Marta Geranzani. Scuola in controluce torna lunedì prossimo. Siamo anche su Facebook se volete visitare la nostra pagina. Un saluto da Maria Piera Ceci.